i soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Allora, questa legge di bilancio. Questa legge è pronta o no? Perché qua non vedo l'ora di partire con tutti gli approfondimenti, con tutti i commi, voglio sapere tutto di tutto. Allora, Deborah, buongiorno. Innanzitutto, sono contento che tu sia così pimpante. Sì, mi hai contagiato con questo entusiasmo per tutti i documenti che arrivano da Roma. Allora, quando te la spiego con una metafora culinaria. Noi abbiamo messo su questo minestrone, sul fuoco, il fornello sono le camere. Sai che io sono sensibile al cibo, eh? Il minestrone non è ancora pronto, sta cuocendo lentamente, verrà pronto e da consumare tra 2 mesi. Ma non era una Caesar salad? Sì, è vero, abbiamo anche scritto, ho scritto, che è una Caesar salad, ma nel senso che si è aperta la dispensa di fine legislatura, si è detto vabbè, che è rimasto dentro, buttiamo un po' di cose, però non è ancora pronto, non si può ancora mangiare. Posso però prenotare già 2 argomenti dei quali vorrei occuparmi, che ho intravisto leggendo il Sole 24 Ore. Aspetta che prendo nota. Prendi nota, la questione del cambio di nuovo di tutti i dispositivi televisivi entro qualche anno, non sappiamo se quelli che abbiamo adesso andranno bene da qui al 2022, ci dovremo collegare un altro decoder e qua parte già, è un tema molto popolare fra gli ascoltatori, che sono dei... Ma guarda, senz'altro ne parleremo, perché qui c'è uno switch, si dice così, no? Certo. Cioè una necessità di adeguare l'apparecchio televisivo alla tecnologia nuova, e quindi bisogna parlarne, non è una cosa che bisogna fare domani, tranquillizziamo gli ascoltatori, però è importante, se uno ha in animo di cambiare, sostituire il televisore, adeguarlo, eccetera, eccetera, tenere presente questa evoluzione. Benissimo. Secondo tema che mi piacerebbe trattare è la questione degli incentivi fiscali per rifare il verde di casa, dei balconi, dei giardini, e quindi anche quello mi piace. Certo, in una spesa massima agevolata, così prevede quello che sta ancora bollendo, non lo puoi ancora mangiare, fai attenzione. Quasi nel caldo. È ancora crudo, bolle sotto il fornello delle camere. Sì, fino alla spesa massima di 5.000 euro ci sarà un'agevolazione, il cosiddetto bonus giardini, o come lo chiameremo, anche terrazzi, perché no? Perché no? E ti verrà agevolata, ti verrà scontata presumibilmente un 36%, che andrai a recuperare come sconto dall'IRPEF. Certamente, come tutti gli incentivi fiscali legati alle ristrutturazioni, alle manutenzioni straordinarie, risparmio energetico, funzionano tutto così, non è che tu fai una spesa e poi immediatamente nel giro di 10 giorni hai un bonifico indietro da parte dell'amministrazione fiscale. La tua fiscale. Preparazione mi scalda il cuore. Ho ristrutturato qualche volta. Ma allora, fantastico. Detto questo, in attesa che arrivi tutto ciò e che ci consenta di dedicare a questo argomento tante e tante puntate di Due di Denari, caro mio, oggi è giovedì. E allora noi oggi, gnocchi, prima cosa. Seconda cosa, mercati finanziari. Perché qua, tanto per cominciare, Wall Street ha un record dietro l'altro. La borsa tedesca è al top di sempre. Ci sono i livelli record per la borsa di Tokyo. Al top da 2 anni e mezzo anche Piazza Affari. Viaggia a rialzo anche il prezzo del petrolio. Qua non sappiamo chi più ne ha più ne metta. È tutto splendido, è quasi tu, però lo dici con preoccupazione. Ma sì, perché sai, noi lo stiamo dicendo in realtà da qualche giorno. Quando poi i grafici sono verticali degli asset finanziari, cominciamo un po' a preoccuparci, perché prima o poi... Sì. Io non dico un crollo altrettanto verticale, ma uno stop qualcuno ce lo metterà prima o poi, o si viaggerà ancora così a lungo. Il tutto questo potrebbe essere che uno stop ce lo metta all'interruzione degli stimoli monetari in corso. Sappiamo che ieri sera si è chiusa la riunione del braccio di politica monetaria della Banca Centrale Americana, i tassi sono rimasti fermi, ma è stato confermato che il ritocchino ai tassi avverrà nel prossimo meeting fra un mese. E poi adesso ci sarà anche appunto il cambio della guardia al vertice. Esattamente, per la prima volta arriva un non economista. La signora Janet Yellen lascerà il posto a Jerome Powell, come è scritto oggi anche su tutti i giornali, anche su Sole 24 Ore naturalmente. Allora, poi c'è l'Europa, la Banca Centrale Europea, che invece, come è noto, inizierà a ridurre drasticamente lo stimolo monetario in corso a partire da gennaio. Il famoso tapering arriva la riduzione degli asset appunto acquistati dalla Banca Centrale Europea, degli attuali 60 miliardi si passa ai 30 a partire da gennaio. Insomma, i temi anche oggi di cui parlare non ci mancano. Direi di far partire ufficialmente la nostra rubrica del giovedì. Andiamo. Investire informati. Investire informati oggi con Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Convochiamo anche i nostri ascoltatori. Certo, i numeri sono quelli abituali. Allora, la descrizione di come stanno andando i mercati, le politiche monetarie, le banche centrali, l'avete appena ascoltata da Deborah. Voi avete domande, avete perplessità, avete preoccupazioni anche, perché appunto il tempo, il barometro segna bello un po' dovunque. E questo, che è una buona notizia sicuramente, però deve anche magari aumentare qualche principio di prudenza che potrebbe muovere i nostri comportamenti di investitori, di risparmiatori. Che è quella già che ha mosso un po' i risparmiatori italiani, secondo quanto ha raccontato il rapporto emerso che è stato diffuso due giorni fa nel corso della giornata mondiale del risparmio, no? La giornata organizzata dall'ACRI, e qualche indicazione in questo senso mi sembra di ricordare che sia già è giunta emersa. Molto puntuale, infatti. Allora, i numeri sono quelli soliti. Volete intervenire in diretta? Ricordatevi che oggi è anche il giorno del domandone, quindi la faremo poi più avanti nella trasmissione. Esatto. Il domandone, ricchi premi. Tra l'altro è una notizia che tu hai dato ieri proprio in diretta nel corso della trasmissione, quindi già arriva il primo aiuto. Premiamo buoni. Anche la fedeltà dell'ascoltatore. Esatto. 800 24 00 24 se volete chiamarci in diretta. Se invece preferite l'SMS e il WhatsApp, allora 349 238 6666. Volendo si può scrivere una mail, giusto Deborah? Ma guarda, volendo si può fare sì. Allora il numero, l'indirizzo. Un numero c'è, mi ha scritto due lettere. Di denari, però attenzione che è scritto a lettera, due di denari, chiocciolaradio24.it. Volevo interpellare gli ascoltatori su un aspetto preciso, se mi consenti. Allora, siccome il rapporto, secondo quanto emerso dalla giornata mondiale del risparmio, pare che la crisi abbia cambiato la faccia al rapporto fra italiani e risparmio, quest'anno questa tendenza sembra più evidente che mai, complici le risoluzioni bancarie che hanno compromesso la fiducia dei risparmiatori e delle famiglie. Allora chiediamo ai nostri amici che ci seguono da casa: che bilancio vi sentite di poter fare oggi? Quali sono i temi finanziari che quest'anno vi hanno coinvolto di più? Per cui, come dire, risposta larghissima, vi potete sbizzarrire quanto meglio credete. Bene Deborah, tra l'altro scusami, ricordiamo che oggi siamo in diretta anche su Facebook. Siamo ritornati, sì. Salutiamo dopo la pausa di ieri chi ci segue sulla nostra pagina, Due di Denari Radio 24. Buongiorno. Ci vedete in diretta esatto. E vedete anche il nostro ospite, il dottor Alfieri. Eccoci qua, allora Lorenzo Alfieri, cominciamo subito con un esame dell'andamento delle borse e del mercato azionario. Non comincio ad essere un po' troppo euforica la situazione, perché sono settimane che insistiamo sui record americani che, pur depurati dal rapporto di cambio, sono forti, sono senza freni. Qual è il suo giudizio? Ma nonostante l'apparenza sia ovviamente di mercati finanziari, soprattutto quelli azionari, molto forti, bisogna considerare che in questo momento lo scenario macroeconomico internazionale è generalmente veramente molto interessante e positivo, come potrei dire non mai da qualche anno. Nel senso che contemporaneamente tutti i vari principali, le principali aree geografiche, Stati Uniti, quindi Nord America, Europa, Giappone e anche i mercati emergenti stanno crescendo. Stanno crescendo con, molto importante da ricordare, una inflazione molto moderata e dall'altra parte delle politiche monetarie che, nonostante ci siano ovviamente in questo momento delle leggere restringimenti, rimane molto espansiva rispetto al passato. Quindi è un clima molto positivo, di cui ovviamente in questo momento i mercati si stanno nutrendo, e stiamo vedendo ovviamente i record che ogni giorno sono presenti un po' su tutte le piazze finanziarie. Quindi è un quadro positivo. No, stavo intanto controllando un po' quello che accade questa mattina, anche se fra un po' faremo alle 11.30 l'aggiornamento sui mercati. Milano guadagna mezzo punto, quindi riaggiorna il suo top da luglio 2015, sono un po' più prudenti le altre piazze europee, continua ad andare molto bene la tecnologia americana. Il Nasdaq ha toccato quest'anno 62 record in tutto il 2017 e le trimestrali che sono in corso di diffusione in questi giorni dei big della tecnologia confermano l'ottimo stato di salute di questo comparto. Sì, vediamo dei dati impressionanti da parte dei grandi operatori della rete, quelli che peraltro dovrebbero essere invece anche nel mirino di politiche nazionali e sovranazionali per questioni di tassazione, come sappiamo la famosa web tax e così via, però sembra che tutto questo fino adesso non abbia assolutamente influito sul loro andamento, perché anzi i dati che continuiamo a vedere, le trimestrali che continuiamo a vedere giorno per giorno, sono assolutamente impressionanti. No, tra l'altro sai che abbiamo avuto nei giorni scorsi appunto le trimestrali di Amazon, il titolo è cresciuto di oltre 13 punti in borsa, Microsoft è cresciuto di oltre 6,5 punti, Alphabet, che è Google, più 4 punti, Intel con una crescita da 2 giorni fa in borsa del 7%, ha toccato i massimi da 17 anni. Tutte queste aziende, dicevamo, hanno messo a segno trimestrali superiori alle stime e la capitalizzazione di Amazon è cresciuta in un giorno di $62 miliardi, circostanza che ha permesso a Jeff Bezos, che è il CEO, l'amministratore delegato, il fondatore del gruppo, di sorpassare Bill Gates e diventare l'uomo più ricco al mondo. Ecco, ma al di là ti di questo derby, potresti inventare un portale di e-commerce per piacere? Adesso puoi mi fare qualcosa di prendo utile. Degli appunti, però prima faccio una domandina al nostro ospite. Ma dottor Alfieri, non è che qui io sono abbastanza vecchio da ricordarmi una bolla sulla tecnologia? Io sono magari più giovane di te, ma me la ricordo benissimo perché la TV del Sole 24 ore la raccontavamo. So che andavi giorno. All'epoca andavi al ginnasio, però sì. No, scherzi a parte, agli inizi del 2000 ci fu un crollo verticale, c'era stata un'euforia negli ultimi anni 90. Proprio sulla tecnologia, sull'e-commerce, bastava in certi momenti bastava annunciare, neanche aver già operato sulla rete, per vedere crescere in modo impressionante le azioni di quelle società che lo annunciavano. Non è che stiamo rischiando di nuovo una sopravvalutazione di questi giganti del web, di questi operatori del digitale? Ma innanzitutto farei alcune riflessioni. Guardiamo alla tecnologia. È un tema molto importante dove ci sono dei trend, delle innovazioni continue anche in settori particolarmente, passatemi il termine, noiosi. Le banche, le assicurazioni, anche l'automotive è investito di fatto di nuova tecnologia. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono c'è bisogno di innovazione, bisogna investire, ci sono aziende anche medio piccole che stanno ovviamente beneficiando, essendo coinvolte nell'ambito, nell'area e nel settore della tecnologia, di questo vento nuovo. Significa quindi che secondo noi le tecnologie e la tecnologia in assoluto è comunque un tema molto interessante, un tema di crescita. Questo ad esempio secondo noi potrà avere dei benefici effetti anche in Europa. Si parla sempre dei giganti americani, non bisogna dimenticare che in Europa ci sono aziende fortemente coinvolte nella tecnologia, anzi che sono leader nel loro segmento. Questo crediamo che porterà benefici effetti anche sulla valorizzazione di queste aziende. Tornando però ai soliti noti, è chiaro che da una parte ci sono sicuramente delle quotazioni non particolarmente, come si suol dire nel termine finanziario, cheap, cioè convenienti. Dall'altra parte però quello che sta avvenendo è che gli analisti si trovano davanti per la prima volta sostanzialmente diverso, in modo differente dalla bolla che abbiamo indicato prima, su dei dati di crescita concreti e costanti e continui. Crediamo che quindi queste aziende siano ben valorizzate, ma dall'altra parte ovviamente capiamo anche lo stupore che ogni volta queste aziende riescono ad offrire agli analisti per dati sempre più in crescita. Quindi su queste grosse aziende bisogna entrare con molta cautela. Tema diverso è quella della tecnologia, dove crediamo fortemente ci siano margini di crescita ancora molto importanti e molto interessanti. Traduco brutalmente dalla sua considerazione. Non guardiamo solo quindi ai valori di borsa dei grandi, i Google, gli Apple e così via, ma interroghiamoci invece su tutto quello che può essere lo sviluppo tecnologico, ad esempio di Industria 4.0, lo sviluppo del digitale. Ci sono la incentivi, robotica. Cara Deborah, anche nel minestrone della finanziaria ci sono confermati gli incentivi per Industria 4.0. 17 miliardi sul piatto per i macchinari high tech, come diciamo sul Sole stamattina. Ad esempio, e quindi potrebbero esserci invece occasioni interessanti in ambiti magari meno noti, meno da grande titolo sui giornali, ma più mirati in questa evoluzione tecnologica che sta interessando tutti i settori dell'industria di fatto. Assolutamente sì, è corretto, quindi avvicinandoci a questo segmento molto interessante, solita raccomandazione, il fai da te è da evitare, cerchiamo di lasciare mano ai gestori che si muovono anche in questo settore, sapendo cogliere le opportunità anche in Europa, anche nei mercati emergenti, anche in Asia, e non solo a investire sui certo. soliti quattro nomi. È un settore sensibile alle politiche monetarie, questo tecnologico, l'high tech, l'informatica in generale. Per esempio, è ovvio che il settore finanziario lo è, magari la manifattura può esserlo, altri settori possono esserlo, questo? No, assolutamente no. Come dicevo all'inizio, è un settore che sta fortemente cambiando veramente le dinamiche dei processi industriali. Sono disinteressati al fatto che il denaro sia buon mercato. Sì, sono completamente slegati in questa fase di crescita economica da tematiche legate ai tassi. Certo. Complessivamente, allora, noi rimanendo sul terreno dell'operato delle banche centrali, perché sono queste che continuano a guidare i mercati, la politica monetaria molto espansiva però ha dato tanta liquidità alle borse, ed è anche grazie a questa che adesso i mercati azionari sono sui massimi. Il rialzo dei tassi americani di dicembre, che arriverà ieri sera, è stato confermato. Metterà un freno, oppure il mercato ha già largamente digerito questa prospettiva e sarà neutrale rispetto a questa operazione del prossimo mese? No, è un mercato che ha ampiamente, diciamo, valutato, anzi positivamente valutato, una fase di rialzo dei tassi. Mi spiego meglio, è evidente quindi che se la Fed continuerà e proseguirà in questo rialzo dei tassi, significa che ha dati molto solidi, molto concreti di una crescita, e abbiamo visto anche l'ultimo dato che è uscito nei giorni scorsi di un'economia americana molto sana, forte in ogni suo settore, con un'inflazione che rimane moderatamente in rialzo. Quindi diciamo, come ho detto all'inizio, è una situazione questa ideale per i mercati finanziari, che stanno continuamente comprando mercato, anche il mercato certo. USA, nonostante i massimi. Tra l'altro, a proposito di inflazione, ieri sera Mauro, la Federal Reserve ha detto che i prezzi della benzina negli Stati Uniti sono saliti per via degli uragani che hanno mandato in tilt il centro nevralgico del settore energetico USA, spingendo l'inflazione a settembre, anche se parliamo di un'inflazione che resta sotto il tasso di crescita a cui la Fed ambisce, a cui guarda, che è il 2%, come succede naturalmente in Europa. No, siccome ieri abbiamo parlato di carburanti, da noi crescono le quotazioni per altre ragioni, perché arrivano i ponti. Ma noi eravamo più maliziosi senza ieri, uragani. Pensavamo che l'aumento non dipendesse con da questo bel tempo climatiche. Chissà come mai, esatto. Tra l'altro, da noi, lo ricordo, en passant, proprio ieri giornata di festa, l'abbiamo detto però a due di denari, ve lo ricordiamo, c'è stato un lieve rallentamento dell'inflazione, quindi ci siamo attestati su base annua, adesso siamo all'1%. Stavamo a un 1,1, e questo 2% che hai evocato tu, che sembra sempre un po' il livello ottimale, il livello indicato come ottimale delle banche centrali, quindi resta ancora lontano, siamo a metà del percorso. Questo è un tema molto interessante, poi lo approfondiremo con Lorenzo Alfieri, perché viene valutato sempre in maniera un po' curiosa, contraddittoria se vuoi, dai nostri ascoltatori, che non capiscono quando l'aumento dei prezzi sia una buona notizia e per chi. Poi ci ragioniamo, quindi andremo sul tema dei fondamentali macroeconomici, ma in realtà mi pare di capire che sia un tema che appassiona anche Gianluca da Milano. Lo sentiamo? Sentiamolo. Gianluca, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Salve, mi chiamo Gianluca. Volevo fare un'osservazione ed una domanda. I dati eccezionali che abbiamo condiviso adesso in trasmissione, borse che crescono, sì, prezzo del petrolio alle stelle, tradotti in economia reale. Alle stelle non tanto, diciamo ai massimi da qualche tempo a questa parte, ma partendo da molto basso. Esatto, ecco. Perfetto, ai massimi. Tradotti in economia reale, sono dati che comunque su cui possono festeggiare, diciamo, tutta la platea di cittadini, oppure solamente il target, il cluster di investitori / risparmiatori / speculatori? Perché Gianluca fa questa riflessione? Ma perché magari un titolo di un'azienda potrebbe andare molto bene, perché magari alla base c'è una ristrutturazione che ha comportato un ridimensionamento del personale, piuttosto che un prezzo alla benzina che cresce, significa che a parità di stipendio una persona deve spendere più soldi per poter fare gli stessi chilometri con lo stesso pieno di benzina per andare a lavorare. Grazie. Quindi, Gianluca, guardi, lei ritorna sempre un po' su un tema che piace considerare gli ascoltatori, il cinismo dei mercati, che brinda anche alle ristrutturazioni. La borsa è cinica, d'altronde, però è... questo è. Che cosa la finanza, diciamo che così in questi anni, specialmente appunto dalla crisi finanziaria che poi è diventata economica, non ci ha dato grandi motivi di gioia, per così dire, a noi popolo non di finanziari in qualche modo. Alfieri, il legame quindi, so che è una domanda di quelle colossali, manca che le chieda anche qualcosa sull'immortalità dell'anima, però il legame tra i mercati e l'economia reale, perché questa euforia non sembra trasferirsi del tutto all'economia reale, perché non sembra trasferirsi ad esempio in un miglioramento deciso dell'occupazione? Le due curve sembrano viaggiare proprio con due velocità differenti. Ma rispondo anche all'ascoltatore, diciamo che ci sono fasi di crescita dei mercati finanziari che non rispondono, non corrispondono ai dati diciamo di base, ai dati che, macroeconomici che noi vediamo tutti i giorni. Ci sono alcune fasi in cui invece si intrecciano questi dati e dobbiamo dire che questo è un momento che è per un certo senso euforico per i mercati finanziari, ma dall'altra parte troviamo rispondenza anche diciamo nei dati macroeconomici. Se guardiamo all'Italia, finalmente l'Italia sembra avere intrapreso una fase di modesta crescita rispetto ad altri paesi, ma comunque di crescita un po' più sostenuta, e questo non fa altro che direi rallegrare sia i mercati finanziari ma anche il singolo diciamo investitore o la persona che risente poco di queste dinamiche. Per quanto riguarda il rialzo del prezzo della benzina, è vero, siamo in una fase di moderato rialzo, i mercati finanziari in questo momento stanno scontando una ripresa anche del petrolio come una buona notizia, cioè evidentemente in questa fase ci sono aspetti che possono risultare positivi anche in un rialzo, cioè vuol dire che l'economia va, c'è maggiore domanda di petrolio, maggiore necessità e fabbisogno energetico, vuol dire che le aziende stanno producendo di più. E speriamo che l'ascoltatore possa vedere a casa sua magari qualche effetto di tutto questo, perché è chiaro, lo dicevamo anche l'altro giorno con Marco Lo Conte, il tema di quello che accade attorno a noi e il percepito è sempre molto importante. Poi sì, chiaramente c'è una lentezza, questa c'è sempre stata, nel trasferire quella che può essere un'euforia della singola azienda che magari si attende un miglioramento. Adesso appunto abbiamo parlato del rinnovo dei televisori, quindi c'è da immaginare che chi produce televisori in questo momento sia in una condizione di ottimismo, che questo poi si traduca, parlo molto brutalmente, in un aumento di retribuzione per tutti gli addetti alla produzione di televisioni. Beh, poi lì ci vorrà un pochino di tempo, c'è sempre una, sempre ambito tecnologico che ha subito tutte le conseguenze. Uno dei problemi dei mercati finanziari è che tendono sempre a scontare troppo gli eventi futuri, quindi per così dire immediatamente scarichiamo una buona notizia sui mercati finanziari, ma giustamente come è stato sottolineato questa buona notizia poi magari può impiegare 6-12 mesi per trasferirsi nella vita quotidiana reale, nell'economia reale. Allora noi adesso ci fermiamo perché voglio sapere come vanno i mercati finanziari. Bene, cara Debora. Bene. E allora sono pronta. Debora, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Parlavamo di televisione prima, questo è uno show storico, no? Guarda, un tempismo pazzesco da parte dello staff che ci segue di là dal vetro, esatto. Cioè Paolo Corleoni insieme a Giulia Lauricella e a Marco Lombardo, grazie naturalmente per l'aiuto che ci danno, senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. Ecco. E hanno non so se subito sarebbe... legato la televisione, le modifiche tecnologiche, ma anche quello che invece ci sta più a cuore nella mattina di oggi, cioè l'inflazione, il prezzo. Il prezzo è giusto o non è giusto? O è ancora troppo basso? Perché magari dovrebbe riscaldarsi un po' insieme, perché no, alle nostre retribuzioni. E si scaldano molto gli ascoltatori su questo argomento, perché quando noi così auspichiamo un aumento dei prezzi, perché lo identifichiamo questo movimento come un miglioramento complessivo delle condizioni economiche, aziende che producono di più e quindi mettono più prodotti sui mercati e di conseguenza accelerano sui prezzi, e un po' si indispettiscono perché dicono: ma insomma, ma noi siamo dei consumatori e invece con i prezzi più alti paghiamo di più tutto quanto. Quindi dov'è che si può fare la riflessione, Lorenzo Alfieri? Qual è il prezzo giusto che mette d'accordo un po' tutti? Ma diciamo che, tornando un po' alle dinamiche dei mercati finanziari, prima si era citato il fatto che il rialzo dell'inflazione fino a quanto, fino a dove è sopportabile, dove si innescano ovviamente dei rialzi dell'inflazione che sono pericolosi anche per i mercati finanziari. Storicamente diciamo che con inflazioni moderate, comprese tra il 3 e il 4%, i mercati finanziari hanno continuato a crescere. Solo al di sopra di queste soglie evidentemente iniziano a scontare, e quindi rispondo un po' indirettamente alla domanda, gli analisti, al di sopra di questi livelli, iniziano a vedere, a intravedere dei rischi che possano innescarsi quindi dei fenomeni di rallentamento della crescita, troppo pressioni inflazionistiche e quindi effetti che siano poi controproducenti, certo, all'intera economia, e quindi anche il consumatore stesso, al di sopra di certi livelli di crescita dell'inflazione, inizia a soffrire oltremodo. Allora, dunque, due cose da fare: o sentiamo Franco da Bologna oppure sentiamo Maximilian Cellino del Sole 24 Ore, che che non c'è ancora, ma adesso lo peschiamo e quindi no, direi ma allora che sentiamo Franco da Bologna a questo punto. Franco, buongiorno. Buongiorno a lei, grandissima trasmissione. Grazie Franco, ci dica tutto. Dunque, io ho il portafoglio che è composto per il 76% da fondi comuni azionari in India, Cina, Giappone, Europa, paesi emergenti. Super diversificazione, direi, Franco. Intanto bravo per questo. Poi, poi c'ho due polizze vita e alcune obbligazioni. Volevo chiedere se sono troppo esposto. Ho 82 anni, però non mi dispiace un po' di rischio. E beh, Franco, certo. Allora intanto perché mi sembra che la consapevolezza non manchi in questa persona, Lorenzo Alfieri. Poi chiaramente bisognerebbe vedere che tipo di pianificazione finanziaria ha studiato col suo consulente, col suo promontore o con il suo consulente in banca, a seconda della figura che abbia scelto per farsi accompagnare nelle sue decisioni finanziarie. Ma direi che due elementi appaiono subito molto interessanti ed evidenti. Uno, una forte diversificazione, e quello è un elemento molto importante per una gestione nel medio-lungo termine del proprio portafoglio. Secondo luogo, la consapevolezza del rischio, evidentemente sapere che andare ad investire sui mercati azionari è ovviamente una componente di rischiosità troppo elevata. E io posso solo generalmente dire che i prodotti finanziari che guardano al percorso della vita, per così dire, che sono quindi i cosiddetti profilati, tendono generalmente a ridurre gradualmente, a partire da, ad esempio dai 60 anni, la componente azionaria a favore della componente obbligazionaria. Non posso quindi rispondere direttamente alla persona, perché non conosco, non ho abbastanza elementi, però voglio solo dire che generalmente nell'industria finanziaria, nella gestione del proprio portafoglio, si tende sempre più ad aumentare la componente obbligazionaria, per arrivare ovviamente a certi livelli di età dove la componente obbligazionaria è praticamente prevalente. Che è quella che ti protegge ovviamente il portafoglio. Non vorrei azzardare, forse bisognerebbe anche sapere qual è la frequenza di rotazione di un investitore, diciamo diversamente giovane, come questo signore che ci ha chiamato, sui mercati azionari, cioè se lui spesso sostituisce, cambia il mercato oppure no, cercando quindi di massimizzare nel breve, perché questo potrebbe essere un elemento diverso. Sì, altra cosa molto importante è che di solito generalmente viene costruito un portafoglio per una persona di una certa età più investito in obbligazioni, perché le obbligazioni consentono un ricorrente, un'entrata ricorrente, e di solito a una certa età ovviamente l'entrata ricorrente viene garantita tra virgolette dalla pensione, se c'è più o meno alta, ma poi sappiamo che dall'altra parte ci sono delle spese ricorrenti, ad esempio quelle per la propria salute, per poter fare magari qualche viaggio, se, tempo libero, perché no? Tempo libero, quindi ecco, è per questo motivo che si tende a costruire un portafoglio sempre più orientato sull'obbligazionario, per cercare di garantire dei flussi che l'investimento, la componente azionaria, garantisce ovviamente meno. E qui, come il calcio sui maccheroni, parlando di obbligazioni, ho fatto persino una rima, arriva Maximilian Cellino. Non ti puoi trattenere, tu quando hai l'occasione subito il sonetto scatta come così. Come amor mi ditta dentro, come diceva il poeta. Buongiorno Maximilian, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno a voi, ascoltatori. Allora, perché dico a proposito di obbligazioni? Perché nel grande minestrone, così lo chiamiamo stamattina, della legge di bilancio, che è lì a sobbollire alle Camere in attesa di essere pronto per essere poi consumato nel 2018, c'è anche, compaiono questi bond cuscinetto. Maximilian, abbi pietà di me e tradotti spiegami, così da noi, ovviamente. Spiegami che roba è e se... Non so, può anche interessarci, interessare il piccolo risparmiatore oppure no? Ecco. Giusto, sono il nome bond cuscinetto è stato dato popolarmente da noi, il nome che si trova nella legge di bilancio è ancora peggiore, perché parlano di strumenti di debito chirografario di secondo livello. Ecco, bene, allora chiamiamoli bond cuscinetto che andiamo sul sicuro. Esatto. Forse è meglio. E io vorrei intanto... sgombrare qualche dubbio, insomma, perché non sono direttamente destinati al piccolo risparmiatore, perché proprio l'ultimo comma dell'articolo 100 della legge bilancio, così come sarà probabilmente approvato, chiarisce che questi medesimi strumenti di debito, quindi bond cuscinetto, possono essere oggetto di collocamento, sì, ma rivolto a solo investitori qualificati. Questo non vuol dire che indirettamente non interessino anche i risparmiatori. Diciamo, in primo luogo interessano ovviamente le banche, perché cosa sono questi? Sono questi strumenti, queste nuove obbligazioni sono degli strumenti che le banche possono emettere per rinforzare il proprio capitale. Noi li chiamiamo cuscinetto perché sono una tipologia intermedia. Probabilmente intermedia tra chi? Appunto, probabilmente in passato, insomma, abbiamo sentito parlare sia di bond, obbligazioni bancarie senior e di obbligazioni bancarie subordinate. E ne abbiamo sentito parlare perché questi ultimi tipi di obbligazioni sono anche finite in mano agli investitori privati, ai clienti delle banche risolte nella fattispecie, con qualche bel problema che abbiamo affrontato nei mesi scorsi e che stiamo tuttora affrontando. Questi sono degli strumenti intermedi che si pongono appunto su queste due tipologie. E perché sono importanti da questo punto di vista? Capire perché sono intermedi e in cosa consiste questo fatto che siano appunto intermedi. Perché nel caso in cui la banca abbia dei problemi, tecnicamente si parla di procedura di risoluzione, si andrà prima ad aggredire, anche se aggredire è un termine un po' brutto, insomma, a rifarsi prima sulle obbligazioni subordinate e poi su questi nuovi strumenti cuscinetto, e soltanto in un terzo momento si andrà a rifarsi sulle obbligazioni senior che sono quelle per la maggior parte in mano ancora agli italiani. Gli italiani, l'amore tra le bond bancari degli italiani sta progressivamente scemando, sotto certi aspetti anche per fortuna, però si può calcolare che circa 140 miliardi di euro siano ancora nei bond bancari, siano ancora nei portafogli degli italiani. Quindi perché è importante per i risparmiatori? Perché questo crea un cuscinetto che va a proteggere anche maggiormente i loro bond senior, non ovviamente quelli subordinati. Grazie Maximilian, ci dobbiamo fermare un attimo, ma resta lì perché poi torniamo a parlare di questi bond cuscinetto, come li abbiamo chiamati. Ora ci sono le informazioni sulla viabilità, però ne approfitto prima per porre il domandone, se cortesemente... come mi si è immedesimato nel... Però ti vedo più come Corrado che come Mike. Buongiorno. E mi devo allenare. Allora, vogliamo sapere, e ve l'abbiamo detto, ve l'abbiamo detto, a quanto ammonta il dato su base annua dell'inflazione di ottobre, cioè ottobre 2017 rispetto a ottobre 2016, quanto è il dato percentuale? Telefonateci 800 24 00 24. E adesso traffico. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta Due di denari. Bisogna rifarla. Rifacciamo allora la domanda. Vogliamo sapere, chiamateci in diretta per la risposta. Ricchi premi e cotillon a chi ci fornirà la risposta esatta. Ho una guida su MiFID 2 che è imperdibile. Tra l'altro adesso mi scoraggio, è anche utile, esatto. Mi verrebbe da dire. A quanto ammonta il dato su base annua dell'inflazione ottobre 17 su ottobre 16? È una percentuale, è facile, vi abbiamo... L'ha detta ieri Mauro, quindi è su tutti i giornali di oggi, insomma, non si devono fare delle grandi ricerche. Ecco, si può fare, come dire. Torniamo invece da Maximiliano Cellino. Sì, no. Mi fai solamente dire questa cosa dei diamanti, perché sennò ci dimentichiamo. Un ascoltatore chiede: cosa consigliate ai risparmiatori a cui le banche hanno venduto diamanti, che fare? Domani, nuova trasmissione su questo argomento, a cui ne abbiamo già dedicate tante. Ci sono delle banche che si sta ricomprando tutto, pur contestando un po' la possibilità di farlo, perché per tutta una serie di ragioni che domani vi spieghiamo, però è un tema caldissimo dopo che le due grandi aziende che hanno distribuito i diamanti come investimento attraverso le più grandi banche italiane nei giorni scorsi sono state sanzionate pesantemente insieme alle stesse banche da parte dell'antitrust. Esatto, quindi domani rifacciamo ancora una volta la puntata, lo dico all'ascoltatore che ci ha scritto. Ma non è che tutta questa tua insistenza sui diamanti perché ti aspetti un regalino, qualcosa, un collier, cose del genere? Ma vabbè, donna non chiede, l'uomo deve capire, e lo sai che sono sempre le peggiori situazioni quelle. Mamma mia, va bene, faccio così, ti do una mancetta e poi compri quello che vuoi. Dai, lo zircone. Invece Maximilian Cellino e anche Lorenzo Alfieri, che rimane in studio e Lorenzo Alfieri che è qui in studio con noi. Maximilian, una cosa ancora su questi bond cuscinetto che dovremmo avere dal 2018. Ho capito bene che non sono un prodotto da piccolo risparmiatore? Sì, non sono un prodotto da piccolo risparmiatore direttamente, ma lo possono essere indirettamente. Questa è una cosa da sottolineare, perché è inevitabile che questi tipo di bond finiscano in fondi comuni, obbligazionari, che poi saranno acquistati dall'investitore, dal piccolo risparmiatore. E dico inevitabile perché questi tipo di titoli probabilmente offriranno anche dei rendimenti interessanti in un momento in cui i rendimenti, come tutti sappiamo, scarseggiano, insomma la ricerca è abbastanza serrata. E rendimenti che si vanno, ovviamente, essendo un cuscinetto, a porre in una via di mezzo tra un bond senior di una banca e un bond subordinato. Quindi c'è un po' meno rischio, ma c'è ancora una dose di rischio da considerare. Il rendimento dovrebbe essere un po' superiore a quello invece, esatto, al bond, dove il rischio è però quasi nullo, paragonatelo sempre a strumenti magari di pari durata che ci sono sul mercato, perché se ne poi i rendimenti perché in Europa sono ne partiti, sono stati messi circa 34 miliardi con la Francia capofila, più della metà, 19 miliardi e mezzo sono stati emessi da banche francesi. Ottimo, Maximilian, quando il tutto sarà partito, ti riconvocheremo di nuovo per dare ulteriori ragguagli ai nostri ascoltatori. Grazie intanto, andrei a Luciano da Torino, perché ancora manteniamo l'attenzione sul tema delle obbligazioni. Alfieri, sul ragionamento che abbiamo fatto prima sui rendimenti obbligazionari, intesi come quella modalità per garantire dei redditi integrativi ai pensionati, come nel caso su cui ragionavamo prima dell'ascoltatore che ci ha chiamato, non c'è molta convinzione. Qualche ascoltatore contesta un po' questa riflessione che abbiamo fatto. Adesso Luciano ce la spiega. Luciano? Buongiorno. Sì. Dicevo, quel signore di 82 anni diceva che lui gioca un pochino con queste cose, però si occupa solo di fondi obbligazionari, per lo più esteri, se ho capito bene. Azionario estero, azionario. Sì, oltre il 70% del portafoglio in azionario estero. Sì. Ecco, Io trovo che per esempio l'azionario italiano, che è stato depresso tantissimo negli ultimi anni, può dare delle ottime occasioni e in un certo senso si aiuta anche l'Italia come paese, l'industria italiana. Ci sono delle azioni che danno delle cedole altissime. Ma guardi Luciano, questo è talmente vero che il mondo dei peer si sta muovendo proprio esattamente puntando sulla borsa italiana. Come osserva qualche ascoltatore che ci scrive su WhatsApp, insistete ancora sui record della borsa italiana, ma è ben lontana dai record del 2008. Alfieri, da dove vuole partire? Abbiamo messo nel nostro cesto un sacco di temi. No, beh, la riflessione su come e quale sia la composizione ideale del portafoglio mi sembra un po' questo il tema. Ripeto, al centro secondo me ci deve essere sempre l'investitore. L'investitore con da una parte le sue necessità, è ovvio che è ben diverso un investitore che non ha necessità di avere dei flussi e quindi può beneficiare tranquillamente dell'andamento delle borse ignorando i flussi che vengono generati dal suo portafoglio. Altra ovviamente è chi investe però ha bisogno di un ricorrente. È vero che l'azionario ha dei dividendi molto alti, ma non ci dimentichiamo che ogni anno le aziende decidono quanto distribuire. Qualche anno fa, durante la crisi, ci ricordiamo esempi anche abbastanza clamorosi di aziende che dall'oggi al domani hanno deciso di non distribuire più dividendi per qualche anno in attesa di una ripresa. Uh-huh. Ecco, questo solo per significare che l'azionario ha dei rischi impliciti nettamente superiori all'obbligazionario e bisogna tenerne presente nella composizione del proprio portafoglio. Altro elemento fondamentale, e taccio, è la sensibilità al rischio. Ci sono investitori che sono disposti ad essere investiti. Abbiamo avuto l'esempio di questo ottantenne che investe al 70% il proprio portafoglio. E non mi dispiace. Ci sono investitori che quando hanno il 10-15% dell'azionario sono già molto tormentati. In Italia ricordo solo che il portafoglio teorico medio è composto ancora oggi al 30%, 25-30% in azioni e al 70% in obbligazioni. Quindi in media l'investitore italiano è un investitore molto prudente, quindi bisogna comunque rispettare le caratteristiche dell'investitore stesso. Beh, sono anche stati anni di un calo di fiducia. Abbiamo visto, ne parlavamo lunedì e martedì qui a Due di Denari, abbiamo visto c'è una lieve ripresa nella propensione al consumo, ma è appunto storia degli ultimi mesi, perché per anni invece abbiamo preferito stare prudenti e magari tenere da parte qualcosa in più, perché non si sa mai, e siccome avevamo subito diversi rovesci, il non si sa mai non era poi così ingiustificato. Abbiamo un minuto, Deborah, allora io a questo punto non so, l'interrogazione l'abbiamo fatta, vediamo adesso se sono sentiamo preparati. Piero che ci ha telefonato per il domandone. Piero, la Venezia, sua risposta. Buongiorno. Buongiorno a voi, buona giornata. Prego. Veloce? Sì, 1,1%, 1,1%. No Piero, mannaggia. Lo so, è rimasto male, ma adesso gliela dice Massimo da Milano una risposta corretta. Massimo? Sì, è 1,0%. E quindi 1. Risposta esatta! Risposta esatta, esatto. La mia trasformazione. Le mandiamo la fotografia di Mike Buongiorno. No, ma mandiamo qualcosa, senti, mandiamo qualcosa anche a Piero. In realtà la guida la ha preso il dato di settembre, non possiamo biasimarlo. No, allora li mandiamo anche a lui una guida MiFID. Mandiamo anche a lui una guida MiFID. Grazie ad entrambi, grazie anche a Lorenzo Alfieri per essere stato con noi. La prossima volta che torna a trovarci, se ci riesce prima di Natale, faremo un bel punto della situazione in questo 2017 che è stato assolutamente, come tanti negli ultimi anni abbiamo vissuto, sfidante per i mercati finanziari, quindi faremo veramente il focus sui temi finanziari che hanno colpito di più gli ascoltatori. E caro domani Mauro, si parla di scintillanti diamanti che però sono stati un po' opachi per quello che riguarda le promesse di rendimento per gli investitori e la multa è arrivata. Ve lo raccontiamo domani. Buona giornata.